Per me, la corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca! Te la raccontiamo noi la rivoluzione. 1917-2017, speciale a puntate sulla rivoluzione russa. A cura di Michele Terra e Agostino Giordano. Ciao Michele. Ciao Ago. Come va? Io bene, bene. Tu? Bene, ma ti vedo un po' verde stamattina. Verde? No, no, no. Mi sei diventato andropoviano. Andro che? Andropoviano. No, io certo, mi sento male solo a sentire sta parola. A metà degli anni Ottanta diventò segretario del PQS dopo Brezhnev, Andropov. Un simpaticone. Sì, era l'ex direttore del KGB. E penso che nel mondo comunista internazionale alcuni lo presero anche come una novità, perché era un timido, molto, molto timido riformista, insomma. Ah, ok, quindi un altro insieme. Dai, lo certo, ma ci sono anche in Italia gli andropoviani. Chi sono? Sono quelli che incontri oltre i bastioni d'Orione, al largo di Marte, dopo gli asteroidi, ci sono gli andropoviani. Vivono lì. Bene. Per fortuna non si sono più riprodotti dall'87. Meno male, va. Dove eravamo rimasti, tornando alle cose serie? Ma eravamo rimasti che era finita la guerra civile, i bolscevichi tengono il potere, però non scoppia la rivoluzione europea. Mannaggia. E quindi all'estero come viene vissuta la rivoluzione? All'estero a quanto pare presero bene la rivoluzione di febbraio del 1917, perché pensavano che finalmente la Russia fosse entrata, no, nel novero delle democrazie occidentali. Però poi arrivò l'ottobre del 17 che divise l'Occidente, ovviamente, no? Perché con la rottura rivoluzionaria in molte parti del mondo e dell'Europa si cominciò a dire facciamo come in Russia, perché ovviamente per le masse popolari oppresse dal giogo del capitalismo era una possibilità di... C'è anche la canzone, faremo come in Russia. E noi faremo, sì, come la Russia, suoneremo il campanello, sì. E quindi appunto innalzeremo falce e martello, era un po' lo slogan che si andava sviluppando e diffondendo in molti paesi dell'Occidente. E credo che in particolare possiamo citare appunto quello che avvenne in Germania, dove fa lì appunto un tentativo rivoluzionario con l'uccisione di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht proprio nel 1919. E in Italia anche ci fu un tentativo rivoluzionario, il famoso biennio rosso. Due anni di mobilitazioni per tutto... proprio italiani, due anni per non fare la rivoluzione. Due anni per non fare la rivoluzione, però ci andarono molto molto vicino. E non è un caso che poi subito dopo il fascismo fu usato proprio come strumento per rimettere le cose a posto, ecco, diciamo così. Quello fu un periodo ovviamente per l'Italia molto molto molto intenso. Basta citare quello che avvenne nelle fabbriche soprattutto dell'Italia settentrionale, Torino, Milano, e in cui i protagonisti e gli attori furono tanti, ecco, non solo i comunisti. Qua mi piace ricordare che ad esempio, visto che il culmine si raggiunse poi nel settembre del 1920, in un carteggio tra Kulishov e Turati, si cita proprio il fatto che a Milano non c'era operaio che non girasse con Umanità Nova sotto il braccio, quindi il giornale anarchico per eccellenza, che era molto molto diffuso. Quindi gli anarchici furono i protagonisti insieme a diciamo la parte massimalista allora del Partito Comunista Italiano, e insieme appunto a tante realtà che in modo spesso anche spontaneo si organizzarono per mobilitare le masse su istanze che partivano da magari anche da istanze contrattuali, dai luoghi di lavoro, che però andavano ben al di là, ben più in profondo della società. E infatti a Torino gli operai occuparono anche lo studio di Agnelli. Esatto, c'è esatto. Una bellissima foto degli operai alla scrivania di Agnelli, mentre fuori ci sono altri operai che sono organizzati in guardia rossa con le armi che difendono lo stabilimento occupato. Esatto, ecco, l'occupazione per eccellenza divenne lo strumento con cui le masse popolari divennero in quel momento protagoniste della vita politica italiana, e quindi non solo nelle fabbriche ma anche nelle terre dei latifondi, nelle terre, i contadini ripresero possesso della loro agibilità politica e riaffermando appunto i propri diritti attraverso un'opposizione netta, no, nella società. E l'aspettativa era alta, e ovviamente tutto ciò purtroppo fu fermato dalla allora, diciamo, burocrazie sia sindacali che politiche, riformiste, che ovviamente ebbero molto molto timore di affrontare una fase rivoluzionaria. C'era Camusso? Beh, la Camusso di allora, diciamo che fermò questo movimento, che purtroppo appunto fra repressioni varie, poi dopo il settembre del 1920 cessò e niente, il fascismo purtroppo occupò per 20 anni successivi la scena politica italiana. A tal proposito, tu che consigli libri, puoi consigliare un testo sul Biennio Rosso molto significativo che aiuta a capire quel periodo, che è di Giuseppe Maione, Il Biennio Rosso, autonomia e spontaneità operaia nel 1919-1920, dove si analizza a fondo la questione e addirittura, diciamo, viene problematizzato anche il ruolo di Gramsci e dell'Ordine Nuovo, che erano troppo forse concentrati sulla dimensione operaia, persero un po' di vista quello che invece accadeva nella società, nelle lotte contro il caro vita e appunto le mobilitazioni contadine e tutto quanto il resto, insomma un po' la frammentazione e la spontaneità che troviamo anche oggi, no, nei movimenti, che in mille rivoli che non riescono a trovare una, diciamo, traduzione univoca e una rappresentanza complessiva, no, che porti avanti queste voci. Un libro interessante, purtroppo un po' fuori mercato, credo, anche, esatto. Ai tempi venne pubblicato dal Mulino, se non ricordo, sì, male, esatto. E i cittadini attoniti fingevano di non capire niente. Per aiutare i disertori e chi scappava in Occidente. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. E i commercianti punici prendevano sentieri di montagna per evitare i doganieri ed arrivare in Abissinia. Abbiamo qui in linea con noi Guido Carpi, professore all'Orientale di Napoli. Ciao Guido, grazie per essere qui in linea con Radio Città Fujiko. Ma grazie a voi, salve a tutti. Guido Carpi è stato autore di un libro molto interessante, uscito recentemente per la Carroccia Editore, Russia 1917, un anno rivoluzionario. Un libro abbastanza originale rispetto a tutte le cose che stanno invadendo librerie ed edicole in questo periodo, perché affronta la tematica rivoluzionaria da un punto di vista degli intellettuali del periodo rivoluzionario. Ci puoi dire qualcosa di più? Come si schierarono gli intellettuali, la cosiddetta intelligenza russa nel periodo del 1917 attorno all'ottobre? Ma senti, intanto il libro è comunque tratta sì anche degli intellettuali, ma più generalmente sul processo rivoluzionario dal febbraio all'ottobre. Per quanto riguarda gli intellettuali, naturalmente si schierarono in modo molto diverso. C'erano quelli per i quali il febbraio, quindi lo stabilire delle regole democratiche di tipo occidentale, era più che sufficiente. Altri che condividevano un programma socialista moderato, altri invece che volevano approfondire la rivoluzione. Questi ultimi si dividevano in genere in due parti: quelli che gravitavano intorno al giornale di Maxim Gorky, La Vita Nuova, Novaya Zhizn, che consideravano la classe operaia come centrale nel processo di approfondimento socialista. Non erano proprio bolscevichi, non erano per una presa violenta del potere, ma ci arrivavano abbastanza vicini. Poi c'erano invece quelli che pensavano che la rivoluzione dovesse essere un ritorno alle origini della civiltà russa, una sorta di socialismo un po' nazionalista. Questi erano vicini ai socialisti rivoluzionari di sinistra, che per un certo periodo governeranno coi bolscevichi, cioè una rivoluzione come riscoperta delle radici nazionali. Naturalmente era un modo molto falsato di vedere quello che stava succedendo nel paese. E poi dopo la rivoluzione naturalmente qualcuno aderirà, qualcuno sarà più critico e altri sceglieranno invece la via dell'emigrazione. Tu hai studiato molto i temi anche letterari, hai fatto anche due tesi, se non vado errato, sulla letteratura russa uscite qualche anno fa. Si può dire qualcosa se c'è stato un salto nel mondo delle arti e della letteratura russa fra il periodo rivoluzionario leniniano, bolscevico, il periodo invece staliniano e poi quello successivo? Certo, sì, io in realtà sono più uno storico della letteratura che uno storico vero e proprio. Tra l'altro pubblico molti materiali sul mio canale YouTube, chi volesse magari approfondire un po' può andare a sentirsi delle cose lì. Poi sì, ho scritto una storia della letteratura russa in due volumi, e per quanto riguarda le arti e la letteratura, certo, è un periodo di grande fermento, quello subito successivo alla rivoluzione. Naturalmente bisogna tenere presente che nelle arti, come anche in tutto il resto, la rivoluzione crea ma distrugge anche molto, crea sul materiale destrutturato della cultura precedente. Tutte le istituzioni culturali, biblioteche, scuole, università, accademie, vengono completamente spazzate via, così come viene spazzata via l'intera classe dirigente precedente, anche gli intellettuali precedenti. Addirittura la lingua viene deformata, perché sale alla ribalta una nuova generazione di intellettuali, di poeti, di scrittori, che spesso venivano da ceti subalterni precedenti, gente che non avrebbe mai avuto accesso alla cultura se non ci fosse stata la rivoluzione. Quindi un grande fermento soprattutto nelle arti legate all'avanguardia, a vario titolo, ma anche rottura violenta col passato. Questo per quanto riguarda gli anni 20. Poi con lo stalinismo naturalmente ci sarà un ritorno all'ordine, una battuta d'arresto e un ritorno a posizioni culturali di tipo, si può dire, neotradizionalista, un modo molto diverso di considerare la cultura. C'è uno studio molto importante degli anni 80 scritto da uno storico, tra l'altro, dell'architettura emigrato, di nome Vladimir Papierny, intitolato Cultura 2, che divide proprio la cultura 1 degli anni 20, una cultura egualitaria, pensata in orizzontale, basata sull'idea del collettivo e della distruzione del passato per costruire l'avvenire, una cultura 2, quella staliniana, che è una cultura di tipo gerarchico, verticale e basata sul recupero di tutto il passato culturale in una chiave di apologia del presente imperiale. Ero curioso di chiederti cosa ne pensavi di questa frase attribuita a Majakovskij, che dice: in una nave che affonda gli intellettuali sono i primi a fuggire subito dopo i topi e molto prima delle puttane. È molto attuale forse, ed era sicuramente riferita al periodo pre-rivoluzionario. Sì, no, Majakovskij naturalmente era in prima linea per in questa che è, diciamo, la cultura 1, la cultura degli anni 20, riteneva che fosse la realizzazione di una grande utopia, e certamente in quanto outsider lui, come molti altri del suo gruppo di futuristi russi, non aveva alcuna simpatia per gli intellettuali tradizionali. D'altra parte, a questa frase può fare il paio quella di Lenin, che quando Gorky gli dice: guarda, cerca di trattare bene gli intellettuali perché sono il cervello della nazione, Lenin risponde sprezzante: non, gli intellettuali tradizionali non sono il cervello della nazione ma la merda. Guido, tu hai frequentato molto la Russia e sei appunto un profondo conoscitore di quella cultura. Ci puoi confermare che il popolo sovietico non amava Gorbachev perché lo riteneva stemio? Non amava Gorbachev più che altro perché ai tempi di Gorbachev è andato tutto a catafascio. Per la maggior parte della popolazione che si ricorda quel periodo, più che altro il problema era quello. Né Yeltsin, che è venuto dopo, che invece era notoriamente un omerico beone, era molto più popolare, quindi forse il problema non è tanto la vodka. Però questo mi ricordo una battuta che fece Lev Trotsky ai tempi delle battaglie interne al partito, siamo quindi a metà degli anni 20. Trotsky a sua volta, notoriamente non proprio astemio ma quasi, beveva pochissimo, gli vennero a dire che alle riunioni politiche da Stalin si beveva vino georgiano a fiumi, e lui disse: vabbè, allora questo forse è uno dei motivi per cui noi siamo sempre in minoranza, disse ridendo. Grazie Guido. E intanto in Russia cosa succede? Ah, in Russia? In Russia Lenin non sta benissimo. Esatto, infatti muore. Lenin viene, negli ultimi tempi di vita di Lenin, il capo riconosciuto della rivoluzione, viene emarginato dalla nuova gestione di Stalin insieme a Kamenev e Zinoviev, con un ruolo preminente del georgiano, con cui tra l'altro Lenin negli ultimi tempi di vita ha scontri molto molto violenti. Infatti c'è quella che viene definita l'ultima battaglia di Lenin per impedire che Stalin venga riconfermato segretario generale e diventi poi il dittatore del partito. C'è un testo molto molto importante e durissimo che viene chiamato il testamento di Lenin, che in realtà è la lettera che lui manda al congresso del partito, di cui però viene impedita la diffusione più larga nel corpo dei bolscevichi. Ed è un testo nel quale lui auspica che venga rimosso Stalin dalla carica di segretario generale, e tra l'altro anche per motivi, diciamo così, caratteriali di Stalin, Lenin non lo ritiene il candidato più adatto a quel ruolo. C'è un episodio per esempio di molto violento di Stalin a parole contro la moglie di Lenin, e Lenin non la prende molto bene. Quindi diciamo muore Lenin nel 1924, diciamo alla sua morte ovviamente poco dopo prevarrà, si apre uno scontro per la successione, che però è uno scontro ancora tutto politico. Trotsky, che era, diciamo così, se non l'erede designato, il naturale successore alla guida del partito, in realtà viene prima emarginato dal triunvirato Stalin, Kamenev e Zinoviev, e si apre una battaglia molto dura che dura alcuni anni, fino a quando Trotsky e tutta una parte del partito viene emarginata. Tra l'altro anche su questo ci sono testi molto interessanti. Recentemente è uscito un testo che si chiama I dilemmi di Trotsky di Diego Giacchetti, che ripercorre appunto quel periodo lì, e un altro libro invece di uno studioso francese, Pierre Bruet, è uscito l'anno scorso, che si chiama I comunisti contro Stalin. Ritornando alla dimensione internazionale, ovviamente con la morte di Lenin si abbandona definitivamente la prospettiva della rivoluzione mondiale. Da allora in poi la parola d'ordine sarà il socialismo in un solo paese, no? Quindi... Sì, si apre un periodo di controrivoluzione interna. Esatto. Stalin nell'arco di un decennio o poco più fa fuori tutta la vecchia guardia bolscevica, tutti i traditori diventano. Del comitato centrale che aveva fatto la rivoluzione si salvano in pochissimi, e alla fine degli anni 30 non rimane quasi più nessuno. Lo stesso Bukharin, che poi si era alleato con Stalin dopo Kamenev e Zinoviev, viene poi fucilato. Trotsky va in esilio e viene ucciso da un sicario di Stalin nel 1940. E tra l'altro anche la politica estera dello stalinismo non aiuterà il proletariato mondiale a prendere il potere. Ah no? No, anche perché poi la politica estera staliniana è molto altalenante. Prima pratica il cosiddetto terzo periodo, l'analisi è quella del socialfascismo, e quindi i socialisti, i socialdemocratici vengono tutti accomunati ai fascisti, quindi sono tutti cattivissimi da fucilare. E poi nel giro di pochi anni la cosa viene completamente ribaltata e nascono i fronti popolari, e quindi i comunisti sotto la guida di Stalin si alleano con i socialdemocratici, ma non soltanto, con pezzi importanti della borghesia cosiddetta democratica contro il fascismo. Poi la borghesia democratica in molti paesi si allea al fascismo, e i comunisti vengono massacrati, come succede tra l'altro in Spagna negli anni 30. Comunque nel mondo rimane, nonostante Stalin e lo stalinismo, il mito della rivoluzione sovietica e della Russia sovietica, cioè un sogno per molti, una meta a cui ambire per tanti, e per certi versi ha significato anche che in molti paesi dove non si era fatta la rivoluzione, però le istanze della Russia sovietica venivano utilizzate come conquiste, cioè per ottenere delle piccole conquiste, no? E in molti paesi poi del mondo e d'Europa si ottennero delle conquiste proprio puntando il dito verso Mosca, no? Si aveva comunque quella sensazione di avere, certo, un qualcosa a cui puntare, vero? Certo, anche perché la vittoria sovietica contro il nazismo e contro il fascismo aveva rialimentato il sogno della rivoluzione bolscevica, malgrado tutti, tra virgolette, errori e tragedie commesse dallo stalinismo, non ultimo il patto Molotov-Ribbentrop, che aveva regalato parte della Polonia e del Partito Comunista Polacco ai nazisti. Dopo finita la guerra, i partiti comunisti hanno un nuovo ruolo mondiale, e soprattutto nell'Europa occidentale, però totalmente subalterno ai regimi capitalisti, perché Stalin rinuncia completamente alla rivoluzione mondiale. Per quanto riguarda invece la Costituzione sovietica, che fu redatta in periodo, se non sbaglio, nel 1918, esatto. La prima... Vogliamo dire qualcosa su questo, perché era un testo molto molto avanzato, no? Per certi versi molto più avanzato di molte costituzioni che tuttora si trovano anche nei cosiddetti regimi liberali, certo, democratici. La prima Costituzione sovietica separava completamente, per esempio, la Chiesa dallo Stato, ammetteva la propaganda religiosa ma anche quella antireligiosa, e sui profughi, per esempio, concedeva il diritto d'asilo a tutti gli stranieri perseguitati per reati politici e religiosi, cosa che in Italia è inimmaginabile anche adesso. Ma soprattutto dal punto di vista programmatico, l'inizio della Costituzione del 18 è fenomenale, laddove dice: sopprimere qualsiasi forma di sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, abolire completamente la divisione della società in classi, reprimere implacabilmente gli sfruttatori, di instaurare l'organizzazione socialista della società ed assicurare la vittoria del socialismo in tutti i paesi. Un fantastico manifesto, wow, programmatico. Che bello! Fame e macerie sotto i mortai, come l'acciaio resiste la città. Frate di Stalingrado, di sangue siete la nei caffè, l'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa. Salutiamo Cristiano Armati, il nostro editore della Red Star Press, che è in contatto con Red Star Fujiko da Roma. Prima una domanda di assoluta pertinenza politico-militare. Hai notato in questi giorni movimenti di truppe bolscevichiche attorno alla capitale che si stanno portando coi cavalli ad abbeverarsi a Piazza San Pietro, o ancora la capitale vive una sua certa tranquillità papalina? Ma in effetti sono salito su un palazzo piuttosto alto proprio per scrutare meglio l'orizzonte, e pare che questi cavalli al momento non siano arrivati. Gira voce che, data la fame che dilaga in città, siano stati effettivamente effettivamente divorata, non meglio precisate persone, a cui a questo punto però viene demandato anche il compito di risalire alle cause di questa fame e intervenire invece appunto dei tanto attesi cosacchi. Bene, allora quindi il Papa e la sindaca per adesso possono ancora dormire sogni tranquilli. Ma in realtà noi ti chiamavamo per una domanda leggermente più seria. Tu ti occupi di editoria e di editoria, insomma, politicamente abbastanza marcata da un certo punto di vista, se si può dire ancora la parola comunista, insomma. C'è secondo te un interesse reale attorno ai temi della lotta di classe, della rivoluzione bolscevica, del comunismo, o siamo rimasti una piccola nicchia che si gode, se non una fetta di mercato, una fetta settaria di riflessione storica quasi accademica? Noi come Red Star Press siamo nati proprio con l'intento di essere una casa editrice dedicata alla storia, alle lotte del movimento operaio. Sul discorso di essere di nicchia combattiamo una battaglia, perché noi sosteniamo di essere una casa editrice popolare, e in effetti alcuni fatti sembrano darci ragione, nel senso che c'è prima di tutto fame di identità, e un'identità che i lettori percepiscono come propria è esattamente quella di appartenere al movimento operaio. Il comunismo, eredità familiare, eredità profonda nella memoria di tante e di tanti, è una cosa preziosissima. Viviamo in un mondo fatto di plastica, ci sono poche cose che possono vantare delle radici solide come invece la storia, la cultura del movimento operaio. È vero, a volte succedono cose divertenti, vediamo magari il bambino che alla fiera del libro prende il manifesto del Partito Comunista e dice: questo lo compro perché lo regalo a mio nonno, ma in realtà ecco, l'eredità del movimento operaio è viva, e io, se dovessi fare una stima, dico che riguarda il 40% della popolazione italiana. Forse la vera nicchia è quella, come dire, di lettori sofisticati che esaltano il più grande scrittore texano della seconda metà degli anni Ottanta, ma la letteratura, la storia, la cultura del movimento operaio è estremamente viva, e io credo anche che non riscuote l'interesse che potrebbe riscuotere soltanto perché non le viene concesso effettivamente lo spazio che poi si prende da sola, perché quando va alle fiere, quando viene esposta, quando effettivamente si fa sentire, ecco che trova lettori, sostenitori, appassionati. Quindi da questo punto di vista sì, c'è interesse non soltanto per il 1917, l'assalto al Palazzo di Governo, il comunismo, il partito bolscevico, ma per tutti i temi che appunto hanno fatto e fanno la storia del movimento operaio, che vale pure la pena di ricordarsi che chiaramente non è che sia un fatto prettamente italiano, anzi è un fatto internazionale, mondiale, e questo è un altro elemento di grande bellezza che insomma ci dà anche maggiore soddisfazione nel fare il lavoro che facciamo. Io ti ringrazio, Cristiano, e prima di salutarti una domanda che richiede una risposta flash: tempi di cottura del bambino sotto i 6 mesi? Ma allora, poco, veloce, perché altrimenti poi si indurisce e si perde quindi la tenerezza, che è la prima qualità, come tutti sanno, del bambino piccolo. Va bene, ringraziamo il compagno Cristiano Armati, grazie, ciao. Un saluto, a presto. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма. Bene Michele, adesso che siamo arrivati all'ultima puntata, una botta complessiva di titoli da consigliare. John Reed, vediamo se ti ricordi il titolo. 10 giorni che sconvolsero il mondo. Bravo, hai studiato. E altri libri che potrebbero essere interessanti per chiudere: Trotsky, La rivoluzione tradita, Luigi Cortesi, Storia del comunismo, e poi ancora Victor Serge per un'altra volta, Da Lenin a Stalin, e ancora Margaret Buber Neumann, Da Potsdam a Mosca. E poi chiuderei con un fumetto. Con chi? Fumetto? Sì. Leggero? Le ultime parole di Valentina dal fumetto di Crepax, cita Alexander Bloch: con tutto il corpo, con tutto il cuore, con tutta la coscienza, ascoltiamo la rivoluzione. Bene. Su Radio Città Fucicola. Allora, viva la rivoluzione e buona rivoluzione a tutti. A tutti e a tutte. Ciao.